1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, sono le 7:19 minuti. Forza, cari italiani, inizia oggi la 40esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 40esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. E voi state lì a poltrire, a fare le vostre colazioni sontuose e lunghe, a magari a crogiolarsi tra le lenzuola. Forza, razza di debosciati, andate a lavorare, alzatevi, andate, su! Noi oggi parleremo, sentite già il tono, di quello che è il profluvio di insulti che nella rete si sono scatenati, ma insomma a che livello siamo scesi, il dibattito è continuo, avete sentito Laura Boldrini, prima l'abbiamo fatta sentire, se non dormivate, se non ghiravate, che ha detto potenziali stupratori, quelli che nel blog di Beppe Grillo incitano alla violenza. Allora, è questo il livello dello scontro politico, in cui ci sono accuse soprattutto a sfondo sessuale quando si tratta di donne? Si dirà la rete è così, tira fuori un po' il peggio di noi. Sta di fatto che ne parleremo con Massimo Fini del Fatto Quotidiano, con l'onorevole Michela Marzano del Partito Democratico, alle 8:15, e con voi, se vorrete, con il numero verde 800 24 00 24, dalle ore 8, per intervenire in diretta. Ora andiamo a leggere i quotidiani che trovate in edicola. In questo lunedì 3 febbraio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con non una buona notizia per essere lunedì, Regioni, corsa alla maxi IRPEF, l'addizionale già al massimo 2,33% in Lazio, Molise e Piemonte. È iniziata la corsa all'addizionale regionale dell'IRPEF, che quest'anno costeranno mezzo miliardo in più, e l'anno prossimo già previsto altro mezzo miliardo in più. Quindi un miliardo nel giro di 2 anni. Corriere della Sera apre sull'interesse degli arabi per Alitalia. Gli emiri pronti a salvare Alitalia. Questo è il titolo anche del Messaggero. Alitalia Etihad, c'è l'accordo, ripresa e lite squinzi Letta. Per La Stampa invece, Alitalia trattativa finale. Questo è il titolo di prima pagina. Repubblica, un'intervista a Renzi. Batteremo la nuova destra. Il titolo di prima pagina, mentre per il giornale i conti non tornano, paura per le pensioni. Il Secolo XIX, Boldrini, stupratori a 5 stelle, la polemica sugli insulti. Per l'Unità si riapre il duello sul governo, Confindustria critica Palazzo Chigi, Letta ognuno faccia la sua parte, questa è la replica. Mentre il Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, ha un'inchiesta sui farmaci, il titolo è Siamo sicuri dei farmaci che usiamo? Ecco cosa mettiamo in corpo. Io però voglio partire dalla situazione del maltempo, che è davvero tragica in alcune parti d'Italia, prima fra tutti Roma. Vi sembra normale un paese con la propria incuria del territorio che porta una capitale, la capitale, a far dire al prefetto non venite in città, non entrate in città, l'esercito dispiegato a Fiumicino? Per carità, la quantità di pioggia caduta è tanta, almeno così raccontano, voi di Roma ce lo potete testimoniare, io sono a Milano e ne cade anche qui parecchia da un po' di giorni, non quanto Roma, però certo le immagini, le foto fanno pensare a una città davvero incredibile, cioè, dal punto di vista della reazione del territorio. Il Messaggero, guardate la prima pagina, Roma città chiusa, questo è il titolo, col prefetto appunto che dice non venite nella capitale, la città è stremata, centinaia di famiglie tra Prima Porta e Fiumicino, dove è arrivato l'esercito, hanno perso tutto, case e pazienza. Purtroppo però non è finita, si deve resistere ad altre ondate di pioggia, i meteorologi annunciano diluvio per le prossime 36 ore. E allora c'è il reportage di Laura Bogliolo a pagina 3 del Messaggero, aiutateci, abbiamo perso tutto, il viaggio tra gli sfollati del Tevere. Ma davvero fa impressione vedere le immagini, le foto. come fa davvero impressione, io davvero nel rispetto delle persone che hanno perso la vita, tra cui una bambina di 7 anni, non si può dire nulla, ma le immagini che ci sono, le foto di questa famiglia, si sono messi a Noto in Sicilia in 7, dicono 7, su una Y10, su una Lancia, avete presente la Lancia Y10? Erano in 7 a bordo, sono stati travolti da un torrente, hanno cercato di emergere, sono morti in 3, tra questi una bambina di 7 anni. Comprensibilmente è stato arrestato il guidatore con l'accusa di omicidio colposo plurimo, perché come si fa a mettersi in 7 in una macchina? E poi quando succede una tragedia del genere, con chi te la devi prendere? Con la pioggia? Con il fiume? L'Italia affonda tra neve e nubifragi, tragedia in Sicilia, 3 morti in auto, erano in 7 nella Y10 travolta dalla piena, una bimba tra le vittime, così il titolo di Repubblica a pagina 12, e davvero per rispetto nei confronti dei morti non aggiungo una parola. Mentre fa impressione anche la pagina che il Corriere della Sera mette a pagina 17 dal titolo "In Sardegna i ponti restano chiusi, 100 milioni cancellati per Sarno". Voi dite che c'entrano Sardegna e Sarno? Ma il Corriere fa una pagina molto interessante, la firma Paolo Conti, nella quale racconta cosa succede dopo che avvengono queste alluvioni. "Dopo ogni alluvione", scrive il Corriere, "scorre sempre un altro fiume mediatico. Dichiarazioni, finanziamenti proclamati, opere annunciate. E poi cosa accade? Cominciamo dal disastro più raccontato dell'ultimo quindicennio. Sarno, 5 maggio 98, 159 morti. Spiega Antonio Milone, insegnante dell'associazione Rinascere. A tutt'oggi per Sarno sono stati stanziati 600 milioni, ma 100 non li vedremo mai più. Era un cofinanziamento europeo che imponeva un piano di programmazione della spesa entro il 31 dicembre 2011, ma non è stato fatto. Finanziamenti, addio. Per il resto, gli interventi prevedevano 2 tipologie di opere. Primo, ripristino delle vasche dei canali borbonici o novecenteschi, essenziali per il contenimento delle acque. Le opere non sono state ancora concluse. In più non è stato stanziato un euro per la loro manutenzione, come sempre succede in Italia, e chissà se tra qualche anno saranno utilizzabili. La seconda parte, la più importante, è la riduzione della quantità di terra che sui versanti montani potrebbe trasformarsi in frana. Non è stato fatto quasi nulla. E ancora, in Sardegna, il sindaco di Olbia, Giovannelli, dopo l'alluvione del 18 novembre che ha ucciso 18 persone, gli stanziamenti suddivisi in 2 quote, la prima di 20 milioni di euro, la seconda di 11, entrambe gestite dal commissario straordinario per l'emergenza, Giorgio Ciccalò. E quanti soldi avete visto a Olbia? Nemmeno un euro. E come avete fatto? Beh, noi abbiamo 50 milioni di euro in cassa, non utilizzabili per lo sciagurato patto di stabilità, ma ne abbiamo anticipati 7 con una partita di giro, certi che torneranno in cassa. Lo abbiamo fatto per pagare i fornitori locali che hanno assicurato pasti caldi, alloggio in albergo di 650 sfollati. Allora, ma che paese è? Che paese è quello in cui neppure dopo le alluvioni si impara nulla? Non lo so, io prima della pubblicità vi voglio segnalare due o tre articoli che provengono dal mondo del cinema, colpito da un lutto incredibile, improvviso. Quello, avete sentito, di Philip Seymour Hoffman, che è stato ucciso da un'overdose, è stato trovato a 46 anni, lascia 3 figli, attore di successo, soprattutto nell'interpretazione di Truman Capote, aveva trovato grande fama, aveva vinto anche l'Oscar. È stato trovato appunto con la siringa nel braccio, morto per un overdose, questo nella stanza dove alloggiava. Ma soprattutto il mondo del cinema è inquietato dalla prima volta che parla Dylan, figlia di Mia Farrow e Woody Allen, perché la figlia di Mia Farrow e Woody Allen per la prima volta accusa, parlando in prima persona, il grande regista Woody Allen di averlo molestato. In realtà era una voce che era un'accusa che c'era e c'è stata anche in passato, è costata anche il rischio di un processo per Woody Allen, ma questa volta Dylan parla per la prima volta in prima persona, cioè si espone, ha mandato una lettera al New York Times e allora Repubblica rilancia il tema, la trovate su tutti i giornali, con Nicholas Kristof: così Woody Allen abusò di me, avevo 7 anni, non perdonatelo. Alcune settimane fa, scrive Repubblica, quando la cerimonia dei Golden Globe Woody Allen ha ricevuto il riconoscimento alla carriera, si è acceso il dibattito che verte sull'opportunità di rendere onore a un uomo che è sì un grandissimo artista, ma è stato accusato anche di molestie sessuali sui bambini. Dylan, la figlia adottiva, oggi sposata, vive in California sotto un'altra identità, mi ha detto di essere rimasta traumatizzata per oltre 20 anni dall'accaduto. È Nicholas Kristof che parla, grande giornalista del New York Times. Mentre tutti commentavano la notizia, lei ha deciso di intervenire ed è giusto, scrive Kristof, che vi dica che sono amico di sua madre, Mia, e di suo fratello, Ronan. Dylan si è messa in contatto con me e mi ha scritto, mi ha tormentato per anni che lui l'abbia passata liscia per quello che mi aveva fatto. Ero trafitta dal senso di colpa, ho sviluppato un disordine alimentare, ho iniziato a infliggermi tagli da sola. Questo tormento è stato aggravato da Hollywood, dove tutti, tranne poche magnifiche persone, hanno fatto finta di non vedere. Chi può dire che è successo veramente? Mi dicevano in tanti. Altri fingevano non ci fosse niente di male. Nelle cerimonie di conferimento dei premi gli attori lo esaltavano, i network televisivi mandavano in onda la sua immagine, i critici ne parlavano nelle riviste. Ogni volta che su un poster, una maglietta, in TV vedevo il volto di chi aveva abusato sessualmente di me, tutto quello che riuscivo a fare era solo nascondere la mia sensazione di panico, finché non trovavo un posto nel quale rinchiudermi da sola e crollare. Insomma, una vicenda che riemerge in maniera potente. C'è da dire che gli avvocati di Woody Allen parlano di accuse false e patetiche, ma dicono presto anche lui, Woody Allen, darà altre risposte intervenendo in prima persona. Ma è chiaro, il dibattito è lanciato, ad esempio Giordano Bruno Guerri sul Giornale, dietro la pagina, sotto la pagina "avevo 7 anni, papà Woody mi stuprò", ha un commento, il commento di Giordano Bruno Guerri è proprio questo: io ringrazio Woody Allen per tutte le risate, le riflessioni che mi ha provocato in tutti gli anni, ma neanche per un attimo mi è passato, anche vedendo il suo ultimo straordinario film Blue Jasmine, il ricordo dello scandalo di tanti anni fa, quando si scoprì che aveva una relazione con la figlia adottiva, Sun Yi, poi sposata, probabilmente per metterci una pezza. Oggi le accuse di un'altra figlia, Dylan, costringono alla riflessione anche i più entusiasti ammiratori di Woody. Una riflessione amara, perché ci si rende conto che il fascino dell'intelligenza, la gratitudine per quel che se ne è ricevuto, finiscono per far sbiadire il senso di giustizia. Intendo dire che se si venisse a sapere qualcosa di simile su un personaggio qualsiasi, potente, ricco e famoso, ma che non ci ha fatto ridere e riflettere, probabilmente gli daremmo addosso senza alcuna remora. Con lui no, non viene spontaneo, scatta una sorta di autocensura e prima di arrivare alla conclusione razionale che Allen è una canaglia, passano ancora nella testa le immagini, le battute meravigliose di Manhattan, di "prova c'è ancora Sam", di "io e Annie", eccetera, eccetera. Insomma, Giordano Bruno Guerri scrive: se il successo fa rimuovere ogni colpa. Su tutti i giornali c'è questa vicenda, anche La Stampa: la figlia Dylan, così Woody Allen abusò di me a 7 anni. Ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, Laura Boldrini è passata al contrattacco al presidente della Camera dopo che nel weekend c'è stato un video satirico postato da un attivista su Facebook in cui la domanda era: cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina? Sono partiti una serie di commenti, molti con insulti di vario tipo, tra questi anche insulti a sfondo sessuale. Ed ecco allora che Laura Boldrini ieri, prima telefonando a Giletti, a Domenica Inn e poi da Fabio Fazio, ha parlato di stupratori potenziali sul blog di Grillo. Tanta rabbia, tanta odio c'è stato solo in dittatura. Insomma, accuse molto molto dure, nuovo scontro Boldrini-Grillo, questo è il titolo anche di Repubblica, pagina 6, il suo blog è roba da stupratori. La lite con il vicepresidente Di Maio, che è del Movimento 5 Stelle, dice non ci rappresenta. insomma, da una parte lo sdegno della Boldrini, dall'altra parte il Movimento 5 Stelle che si difende. E c'è da dire che ci sono vari commenti oggi dedicati a questo tema, alcuni ve li voglio sottoporre, a cominciare dall'editoriale del Corriere della Sera di Ernesto Galli della Loggia. In prima pagina il titolo è «Il linguaggio dell'inciviltà». Scrive Galli della Loggia: «Abito a Roma, nei pressi di una scuola media e liceo, e all'inizio e alla fine delle lezioni la mia via si riempie di ragazzi e mi capita così di ascoltare assai spesso le loro chiacchiere. Ebbene, quello che mi arriva all'orecchio è una continua raffica di parolacce e bestemmie, un oceano di turpiloquio. Praticamente qualunque sia l'argomento, in una sorta di coazione irrefrenabile, dalle loro bocche viene fuori ogni tre parole un'oscenità o una parola blasfema. Le ragazze appaiono le più corrive e quasi le più compiaciute nel praticare un linguaggio scurrile. A dispetto dunque di quanto vorrebbero far credere molti dei suoi scandalizzati censori, il lessico indecente, la volgarità aggressiva mostrati da Grillo e dai suoi parlamentari nei giorni scorsi non sono affatto un'eccezione nell'Italia di oggi, sono più o meno la regola». E insomma, scrive, la modernità italiana ha voluto questo generale cieco rifiuto del passato, rifiuto di consolidate regole pubbliche e private, di un sentire civico antico, di giusti riguardi e cautele espressive, di molte cose che da un certo punto in poi la Repubblica ha rinunciato ad alimentare e a trasmettere. Un filo rosso lega la rovina del sistema scolastico da un lato e dall'altro il turpiloquio sessista dei parlamentari grillini di oggi e dei guitti di sinistra di ieri contro le rispettive avversarie politiche. La dissennata edificazione del territorio da un lato e i tricolori sugli edifici pubblici ridotti a luridi stracci dall'altro, le condizioni della reggia di Caserta e il nostro primato delle frodi comunitarie. Ma quel filo rosso non ci piace vederlo ed è così che la società civile italiana è diventata per tanta parte un coacervo di inciviltà. Insomma, Ernesto Galli della Loggia ne fa una riflessione generale sul paese, mentre più nello specifico sentite l'attacco netto, durissimo di Giuliano Ferrara in prima pagina del Foglio con il suo editoriale del lunedì: Grillo è un fuorilegge della democrazia, va punito. Scrive Ferrara: il mio amico Franco Zerlenga, che vede le cose da New York e talvolta le vede meglio di noi, sostiene che Beppe Grillo è semplicemente un nazista. Io sono restio ad applicare la grande terminologia storica del Novecento allo squallore presente, ma credo che Zerlenga abbia ragione. Grillo vuole abolire i partiti che considera morti, se ne sente erede testamentario, si proclama tale come becchino plebiscitario, magari fosse semplicemente un populista democratico. È il Führer Prinzip incarnato. Comanda senza esserci, è monolitico e unico e assente, evoca la violenza, arrendetevi, consegnatevi, l'assedio, defeca sugli avversari, perfino sugli amici non abbastanza obbedienti, coltiva con quel suo amichetto web uno spirito di setta che forse fa ridere, forse fumettaro, forse ha un qualche bavoso elemento di derivazione dall'archetipo del goliardico e del comico, ma impressiona per l'aderenza obbediente che sollecita in rete e fuori dalla rete al prototipo del frequentatore di birreria monacense sulla fine degli anni venti del secolo scorso. Grillo è un fuorilegge della democrazia, insiste Ferrara. Grillo deve essere bandito dalla scena pubblica con metodi rigorosi ed estremi, dovrebbe essere seguito dal disprezzo agente, non inerte, delle istituzioni, dovrebbe essere considerato lui coi suoi corteggiatori come quel che è, un mostro antidemocratico di volgarità e menzogna. Sento già l'obiezione del cretino cognitivo, ma così gli facciamo un favore, e facciamoglielo il favore di fargli sentire addosso l'alito sputazzante della società civile e dello Stato. Grillo non può e non deve essere semplicemente criticato, questa è blandizie. Grillo caput, questo è il problema, altro che il sessismo. Insomma, Grillo va bandito, questo è il messaggio molto forte, molto duro di Ferrara, mentre ieri c'è stata addirittura una scena postata sempre sulla sontuosa, democratica rete, nella quale un militante del Movimento 5 Stelle ha bruciato, e queste sì sono scene che si vedevano insomma in quei tempi, ha bruciato il libro di Corrado Augias, reo di essere andato da Dario Bignardi a dire che i grillini sono fascisti nei loro modi. E allora c'è questo rogo del libro di Corrado Augias fatto da tale Francesco Neri, autore che a Zagarolo organizza il meeting meetup del Movimento 5 Stelle. C'è un'intervista a Corredo a Luciano Canfora, il professore che insegna filologia classica a Bari e Bologna, intervistato da Repubblica, pagina 7, dice, intervistato da Umberto Rosso: staccate la spina Grillo, basta, io lo dico ai grandi giornali, non capisco quale demone si sia impadronito dei giornali che ogni giorno dedicano pagine e pagine alle imprese di Grillo. È un gentile omaggio alle sue buffonate, una cassa di risonanza enorme che gli ha regalato una centralità che non ha sulla scena politica. Insomma, Canfora dice ignoratelo. Risponde Luigi Di Maio, che è il vicepresidente della Camera, intervistato dal Fatto Quotidiano, da Chiara Paolin. Dice: ci scusiamo, ma è colpa dei soliti cretini. La rete esalta i cretini, dice il vicepresidente della Camera. Chi scrive queste cose è un deficiente senza colori. Un giorno vuol vedere la mia casella di posta elettronica e leggere quello che mandano a me? Noi abbiamo denunciato un regalo enorme che il governo sta facendo a banche, assicurazioni via Banca Italia. Invece di discutere di tutto ciò, la Boldrini ha usato la ghigliottina. Questo sì che è uno strumento eversivo. E chiunque abbia esperienza di vita parlamentare sa che le nostre iniziative non sono le più aggressive della storia repubblicana. Anzi, ma d'altronde, quando uno si sente tappare la bocca, reagisce in modo spontaneo ed è inevitabile. Sta di fatto che la polemica continua, anche Renzi, che fa una lunga intervista a Repubblica nella quale parla di legge elettorale, di temi per esempio di Casini, intervistato da Claudio Tito. Renzi dice: non ho bisogno di Casini, servono le idee per battere Berlusconi, non voglio fare il premier, insomma dice sempre le solite cose, parla dell'Italia come sulla vicenda Beppe Grillo, dice: sono tutti atti tecnicamente squadristi, alcuni di loro sono dei bravi ragazzi, ma quando scendono Grillo e Casaleggio la linea è chiara: sperare nel fallimento e aizzare il caos. Così dice Renzi del Movimento 5 Stelle. Adesso i teorici dello streaming e della trasparenza si sono ridotti a chiedere il voto segreto come un partitino da Prima Repubblica. Dovevano rendere il palazzo una casa di vetro, ma scommettono sui franchi tiratori. Così Renzi. Va bene, io voglio salutare un abbacchiato, Mauro Meazza. Dai, Mauro. Sono su, su, insomma. No, io non la volevo mettere. Cos'è successo? Questo è l'inno della Juve, fa schifo anche a me, Mauro, non ti preoccupare. Della cosa? Ma io non ho capito, cioè, perché qua... Ma no, non lo serve, una brutta canzone che ti avevo messo per un brutto momento. Comunque, caro Mauro, dai. No, pensavo fosse l'inno dell'IMU, perché oggi abbiamo delle risposte interessanti. Sulle 24 ore. Sai che bello l'inno dell'IMU. Dal Dipartimento delle Finanze sull'IMU, e quindi pensavo fosse l'inno dell'IMU per introdurre l'argomento. Invece vedo che andate a pescare un po' in nel tutta torbido, la discografia. Nel torbido. No, per carità. No, sì. No, siamo corretti e istituzionali. Senti, hai visto che ti arrivano le addizionali regionali? Ho visto. Ecco, perché già in Lazio, Molise e Piemonte sono ai massimi, quindi occhio che ti tocca pagare un po' più di IRPEF per la regione. Mi sembra giusto. Lo spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore. Poi, se i tuoi 2 euro, allora non sai cosa fare, la difesa mette in vendita caserme, fari, non lo so, cose di questo tipo, ti interessa? Un faro magari, un faro, non so. Un bunker, ho visto che c'è un bunker nell'elenco. Un bunker, va bene. Lo racconta Antonello Cherchi, guarda, se mi dai i tuoi 2 euro cominciamo a presentare una domanda. Sì, per un bunker, magari un bunker lo scampiamo. Ma non lo so, di questi tempi, sai, gira un po', sentivo prima, parlavi della rete, mi sembra che forse un bunker non ci sarebbe scomodo, sai? No, esatto. Dove, senza connessione, peraltro. Senza connessione, assolutamente senza connessione. Poi ci telefoniamo tu e io direttamente da un bunker all'altro, magari ne prendiamo 2 e portiamo avanti questa simpatica tradizione. E naturalmente la guida sui figli naturali, il 7 di febbraio cambiano le regole sulla filiazione, entra in vigore il decreto varato dal governo qualche settimana fa, dal 7 è in vigore e lo spieghiamo tutto in una guida oggi in omaggio con il Sole 24 Ore. Ah, ottimo, ottimo. Ecco, non mettetemi musica. No, in no, uscita, no, no, per no, favore, no, no, per perché... carità, per carità. Ti diciamo, no, anche perché era musica così, ma anche la qualità audio era un po'. No, no, sì, non, non mi piaceva, insomma. Sentivo comunque... male, se mi rimettete l'inno del Limu, magari. Del Limu, del Limu. Va bene, l'inno no? del Limu, possiamo comunque, ascoltarlo insieme. Mauro, non è successo niente, tranquillo, tranquillo. Avete solo perso un punto da lì, dal Milan, stiamo arrivando, ma tu tranquillo. Dormi, dormi sereno, va bene? No, mi sembrava che ci avessero asfaltati, però se vabbè. Tu dici che non è successo niente. Non è successo niente, non è successo niente, tranquillo. Va bene. Ci sentiamo domani. Molti giornali titolano sulla vicenda Alitalia, perché? Perché Enrico Letta era negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, e allora... sembra sempre più vicina la possibilità che il fondo Etihad possa acquisire, o comunque diventare socio di Alitalia, entrare in Alitalia. E ora tutti si scervellano sul perché, il per come, chi sia il principe Mohammed bin Zayed Al Nahyan, il plenipotenziario per gli affari internazionali ad Abu Dhabi, e come racconta Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere, Enrico Letta con grisaglia d'ordinanza, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan seduto di fronte al premier con indosso il bianco Tob, la lunga veste che nei paesi arabi distingue gli emiratini dagli immigrati. La sede del colloquio risolutivo sul destino dell'Italia è stata sabato sera in un raffinatissimo ristorante libanese dell'Emirates Palace di Abu Dhabi. E lì si è parlato della fase finale dei colloqui che hanno portato all'intesa preliminare con Etihad dopo mesi di ammiccamenti e contatti, scandita da un lentissimo rito gastronomico ai sapori di limone, menta e sesamo. Vabbè, c'è anche del colore in quest'articolo. In questo articolo di Monica Guerzoni, per dire come si è arrivati a un'intesa di massima, come racconta Alessandro Barbera a pagina, in prima pagina della Stampa, poi l'articolo continua a pagina 3, la domanda sorge spontanea: che cosa spinge la famiglia reale di un ricco emirato a investire quattrini in una ex compagnia di bandiera europea coi conti traballanti? La prima è una regione, per così dire, di cuore. Il principe ereditario, infatti, è un pilota di elicotteri con un passato all'Accademia Militare di Pozzuoli. L'altra motivazione del tutto razionale, pianificata in ogni dettaglio, fare di Alitalia e di Roma la base di un grande progetto di espansione. Fino a pochi anni fa il trasporto aereo europeo se lo spartivano in tre: Air France, KLM, Lufthansa e British. Il boom delle low cost aveva spazzato fuori dal mercato le compagnie tradizionali, tenendo in piedi solo coloro che per storia e risorse erano in grado di garantire un network di collegamenti intercontinentali. E allora ecco che la lunga marcia per la conquista del mercato europeo da parte di Etihad è iniziata 2 anni fa. Immaginate un pannello del risico e i territori da conquistare: il 29% di Air Berlin, il 40% di Air Serbia, ancora German Wings, una piccola quota dell'irlandese Aer Lingus. Il tentativo di penetrare inizia dal cuore dell'Europa, ma la forza di Lufthansa non gli permette di andare oltre piccole compagnie low cost. Ecco allora la possibilità di Alitalia. Utilizzare poi Fiumicino come hub principale, hub europeo della compagnia, senza correre il rischio di entrare in concorrenza con Parigi e Amsterdam. Dunque, una questione di strategie e una questione che sembra concretizzarsi e potrebbe concretizzarsi nel giro di un mese. Etihad che compra Alitalia. Tra l'altro, da Abu Dhabi è nato anche un duello sulla ripresa tra il premier Enrico Letta e il leader di Confindustria Squinzi, perché Letta ha detto ad Abu Dhabi: venite, è il momento di investire in Italia, è il momento della svolta, mentre ieri da Fabio Fazio Squinzi ha detto altro che, o si cambia passo o a questo punto se il governo è immobile è meglio votare. E al che Letta ha controreplicato poco prima di partire da Abu Dhabi: ognuno faccia il suo lavoro. Insomma, un duello che viene anche plasticamente tradotto nei titoli di giornali, per esempio a pagina 7 del giornale: gli industriali licenziano il governo, questo è il titolo più duro, o comunque anche sul quotidiano nazionale Letta che dice agli emiri: la crisi è finita, ma Squinzi boccia il governo, cambi passo o si va a votare. c'è ancora spazio per che cosa? Beh, alcune notizie di cronaca. La prima, quando l'ho letta sui giornali, mi ha fatto un pochino imbufalire. Quanto può cambiarci in meglio un'ora di sonno in più ogni notte? Ho preso il Corriere oggi, quando ho letto questa notizia, e volevo... Non l'ho stracciato giusto per... Perché la notizia è importante, insomma, c'è stato uno studio scientifico, hanno preso un gruppo di persone che dormiva e le hanno fatte dormire 6 ore e mezza e un altro gruppo di persone le hanno fatte dormire 7 ore e mezza. Hanno visto che quelle che dormono 7 ore e mezza, quindi un'ora in più, invece di 6 ore e mezza, hanno effetti benefici. È già 6 ore e mezza, è già... sarebbe già tanto. Io, Carmelo dice 3 ore, io... Tu, Miriam... quanto? 5. Ma arriviamo a 6 ore e mezza se ci mettiamo in 3, più o meno. Vabbè, comunque, questo studio scientifico che mi mette di buon umore lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 21. Eccolo qua il titolo della Gazzetta dello Sport. Dobbiamo mettere: troppa Juve per l'Inter. Questo è il titolo di prima pagina. Ma siamo, cari ascoltatori, al momento conclusivo, quello dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Riparte una settimana di classifica e vince, stravince oggi il giornale che dedica 3/4 di pagina con Daniela Uva, cari ascoltatori, a questo titolo: ombrelli, tende e divani, com'è bestiale questo design. Oh, una pagina sul design, vabbè, una pagina su cosa? Gli oggetti... rivisti e corretti a misura di animali, il design per i cani, gli ombrelli rovesciati per proteggerli quando piove, la cuccia a forma da tenda di indiani, il lettino da spiaggia no, il lettino da spiaggia per i cani no, no, amici del giornale, la carta costa e voi non ve ne rendete conto.